non avanguardia. A 50 bpm corro forte in questa corsa, poi da te. E se cado non ricrescono le ossa, fai da te. Questa vita formati una grande giostra. Io per te avrei girato mille volte in una volta. Sto lontano dei chilometri, ma i sentimenti nobili non si sa mai perché sono lontani. E quindi muoviti, aspetti a braccia aperte che qualcosa arrivi incontro, negando le evidenze che da solo scende in fondo. Aspetti ma non rischi, ma che tenti di fare? Non ti hanno mai insegnato a navigare in questo mare, tra mille salvagenti dove ti puoi aggrappare. Ma sta attento, chi ti può salvare? Ti può catturare, e tu mi hai catturato, e avevo il cuore fermo, e poi mi hai rianimato con un cocktail di buonsenso, una lacrima di amaro dentro sto bicchiere in vetro. La metafora perfetta della vita è il suo pensiero, ma non il mio non credo, che già mi sento stretto. Quando c'hai tanto da dare, sai non puoi tenerlo dentro, e sto scoppiando adesso, non dirmi di aspettare. Adesso questo è il mio momento, mi saprò far perdonare. Ascolta ste parole, non sai mai che significa. Siamo due facce uguali in una realtà simmetrica, ma questa è vita vera. Allora adesso svegliami, ti scriverò i miei pezzi solo perché te li meriti. Love is for you, the song is for you, my thought is for you, waiting for you, my body is for you, my blood is for you, my word is for everything for you. Cercavo mille soli per vedere nel mio buio, anche se c'era la luce io chiudevo gli occhi subito. E no che non capivo perché non ci vedevo, se mi accecano la vista con il cazzo che ti vedo. Allungherò le mani per cercarmi in questo mondo, sfiderò mille titani a costo di girarmi il globo. Ringrazio solo Dio, è finita questa guerra, perché prego solo Dio per cercarti in questa terra. Adesso ti ho davanti e sembra già Natale, tu sei il regalo più bello che mi potevano fare. I testi sono facili se c'è l'ispirazione, sei tu che li rendi fragili, ho solo un'impressione. Prima valevo zero, quanto vale un tuo DP? Tatuati come un marchio per segnare le sconfitte. Adesso le cancello tutte, in un attimo. Finte come prostitute, in un angolo. E questo testo poi per te, inutile spiegarlo. La connessione tra me e te, inutile che parlo. Mi tocca il tuo pensiero e non so perché, inutile ignorarlo. Lo scrivo in fretta per non dimenticarlo. Corro dietro a troppi sogni, non ne basta uno. Se trovo la strada giusta non mi ferma più nessuno. Adesso il tuo sorriso in mano scrivo questo pezzo. Questo è quello che mi hai dato, questo è quello che ti rendo. Love is for you, the song is for you, my thought is for you, waiting for you, my body is for you, my blood is for you, my word is for you, everything for you. For you.